L'automobilismo, il presidente, parleremo della Cefalù-GB Il Man, il ritorno di questa cronoscalata molto sentita e molto attesa da tantissimi appassionati. Calcio a 5, Real Cefalù, abbiamo Dario Di Paola e attendiamo altri due ospiti, Pino Minutella per quanto riguarda l'allenatore della SD Cefalù e per il basket Salvatore Marsala. Iniziamo dal sindaco, buongiorno sindaco, sindaco di Collesano. Ecco, la prima domanda è d'obbligo. Un breve riassunto, non delle puntate precedenti, ma di questo segmento che ti vede protagonista nella vita amministrativa di Collesano. Ma io devo dire che nonostante il periodo brutto, perché secondo me questo è il periodo più brutto per poter amministrare, negli ultimi 30 anni, perché sappiamo bene quella che è la situazione generale, io devo dire tutto sommato che sono molto ma molto soddisfatto. Molto soddisfatto perché abbiamo immediatamente spinto nella direzione che volevamo, quindi abbiamo puntato molto sulla progettualità, sapendo benissimo che in questo è il periodo, è l'ultimo probabilmente periodo utile che dà la possibilità ai cittadini ma anche alle istituzioni di sfruttare i benefici del POR 2007-2013. Noi non sappiamo dopo il 2013 cosa succederà. Proprio per questo abbiamo spinto molto, come dicevo, sulla progettualità, abbiamo partecipato praticamente a diversi bandi europei e abbiamo ottenuto anche dei risultati. Abbiamo ottenuto un bel finanziamento per la chiesa più antica di Collesano, abbiamo ottenuto un finanziamento per il convento di Santa Maria di Gesù, che oggi diventa centro cultura e luogo dell'assessorato, sito dove è sito anche l'assessorato proprio alla cultura del comune di Collesano. Abbiamo messo in sicurezza una scuola materna che era praticamente abbandonata da tanti anni, abbiamo presentato il progetto, abbiamo partecipato a dei bandi e siamo riusciti a ottenere il finanziamento. Quello che invece è la cosa più ambiziosa che mi riempie di gioia è un altro finanziamento ottenuto e parla della riqualificazione del centro storico di Collesano. Noi sappiamo benissimo che i nostri comuni madoniti quasi tutti hanno dei centri storici che sono delle perle vere e proprie, ma che purtroppo non tutti hanno saputo valorizzare. Il nostro era completamente abbandonato, lo abbiamo attenzionato, abbiamo presentato un progetto sul Pist Madonie, abbiamo allegato a quel progetto un protocollo d'intesa che ha dato forza progettuale, un protocollo d'intesa dove all'interno c'era il Museo Mandradisca di Cefalù, l'Istituto d'Arte sempre di Cefalù e tante altre realtà di privati che vedevano nel centro storico una risorsa per quella che poteva essere, per quello che poteva essere uno sviluppo non solo imprenditoriale ma anche culturale, sociale ed economico di questo paese. Sono tutti i progetti dove già abbiamo fatto i bandi di gara, nel 2012 partiranno. Abbiamo anche, attendiamo da un momento all'altro anche un'altra bella notizia, io sono molto fiducioso, e cioè il completamento del Museo della Ceramica di Collesano. Questo era un progetto che era stato avviato negli anni 90, era nato un contenzioso con la ditta, si era bloccato tutto, abbiamo sbloccato il contenzioso, abbiamo portato il livello del progetto in avanti proprio per essere meritevole di poter essere inserito in un eventuale bando. È uscito il bando, abbiamo partecipato e ripeto, sono molto fiducioso, arriverà anche questa bella notizia. Questa cosa conferma che molti dicono in questo momento non si può fare niente, i tempi sono difficili, non ci sono risorse economiche. Non è vero, perché la cronaca dice che la regione siciliana ha restituito alla comunità europea qualcosa come il 70% dei fondi comunitari. Mancano i progetti, mancano le iniziative, manca l'entusiasmo, la voglia di fare. Io credo che se tutti gli amministratori di questa terra meravigliosa che si chiama Parco delle Madonie portassero avanti con entusiasmo, e molti colleghi lo stanno facendo con molta tenacia e molto orgoglio, possiamo anche in questo momento avere tante chance di sviluppo. E questo è un qualcosa che tutti gli amministratori hanno attenzionato, e molti amministratori, quelli che saranno amministratori, dovranno attenzionare, perché è l'unica strada per poter cercare di dare un input vero al nostro territorio. Ecco Giovanni, da questa prima analisi, ma non c'erano dubbi, almeno per chi ti conosce come me, hai avuto una vita amministrativa, ti sei speso intensamente, e parlavi proprio di arredo urbano, che non è cosa da poco, perché ritengo che la pulizia di un paese è un biglietto da visita. Del resto abbiamo queste realtà eccezionali per quanto riguarda appunto le nostre basse e alte Madonie. Bene anche quello che dicevi sui fondi europei, è veramente in un momento in cui l'occupazione manca, in un momento in cui non si possono chiedere con qualunquismo soldi, abbiamo questi fondi europei fino al 2013, che se ben utilizzati possono portare delle novità in senso positivo in qualunque realtà. Tu ti sei mosso in questo senso, ma mi volevi soffermare proprio sulla pulizia della strada, anche cose marginali, aver messo il posacenere o i contenitori per quanto. E poi la domanda, ecco, sulla differenziata, come siete messi? Allora, noi siamo stati il primo comune siciliano ad aver aderito con delibera di consiglio alla strategia internazionale Rifiuti Zero. Proprio la settimana scorsa siamo stati a Capannori, dove esiste la sede che ha portato avanti in Italia questa strategia. Siamo andati là anche con il commissario dell'ente Parco delle Madonie, ma devo dire con molto orgoglio siamo riusciti a portare anche il presidente del Lato. Cosa abbiamo fatto? Strategia Rifiuti Zero. Strategia Rifiuti Zero è un qualcosa che tende a voler finalmente dare un'impronta positiva di questa nostra regione di virtuosismo nel ciclo di raccolta dei rifiuti. Noi abbiamo immediatamente attivato la raccolta differenziata, siamo passati porta a porta, siamo passati da un 4-5% al 40% nel giro di pochi mesi, ma abbiamo messo anche in campo tutta una serie di progettualità che sono proprio in linea con strategia Rifiuti Zero. Abbiamo presentato anche un progetto, questo ancora purtroppo non è stato finanziato, ma speriamo di riuscire prima della fine del mio mandato. Abbiamo identificato un terreno comunale, vogliamo fare un ecopunto. Cos'è l'ecopunto? È un luogo dove, per incentivare i cittadini, le persone, oltre alla normale raccolta differenziata che fanno nelle loro case, portano in questo luogo la carta, la plastica, il vetro, quello che viene portato viene pesato, quindi il cittadino viene incentivato a fare questo e se ne torna a casa con un sacchetto con la spesa dentro, con i prodotti tipici del territorio. Sono tutte tecniche che tendono a spingere verso la raccolta differenziata, che ormai è notorio, è l'unica cosa, l'unico modo per cercare di risolvere i grossi problemi che la Sicilia ha quando, quando l'argomento è quello dei rifiuti. Abbiamo fatto anche, secondo me, abbiamo messo in atto un'iniziativa bellissima. Io da vicepresidente del parco sto cercando anche di trasferire, oltre che rifiuti zero, sto cercando di trasferire anche un'altra esperienza che ho maturato nel mio comune, e cioè l'utilizzo degli operai della forestale dell'antincendio dopo il mese di settembre. Noi sappiamo che, o meglio, non tutti sanno che noi abbiamo operai dell'antincendio che sono, restano, ma non perché loro lo vogliono, ma perché le istituzioni probabilmente non hanno capito che in tempi di guerra come questi bisogna sfruttare al massimo, utilizzare al meglio tutte le risorse. Noi abbiamo operai dell'antincendio che stanno a braccia concerte fino al mese di dicembre. Spiegatemi voi, nella nostra Sicilia, che senso ha da settembre in poi, nel caso di Collesano, tenere 40 persone ferme dalla mattina alla sera per circa 3 mesi. Ho fatto una richiesta alla forestale, ho evidenziato questo problema, mi è stato concesso l'utilizzo agli operai della forestale, abbiamo pulito tutti i fiumi del nostro territorio, un lavoro incredibile. Abbiamo pulito i parchi urbani, abbiamo potato tutti gli alberi del paese. Con questi operai voi non potete, se non salite a Collesano, non potete rendervi conto. Un paese è riuscito a rinascere grazie all'utilizzo di questa forza di manodopera che si è resa disponibile a portare avanti questo lavoro, rendendosi conto che dimostrare alla gente che loro potevano essere utili era anche per loro un risultato importante. Io questo, abbiamo fatto anche delle foto, abbiamo tirato fuori dal letto del fiume di Collesano qualcosa come 6 scarrabili di lavatrici, frigoriferi, sponde di camion, un lavoro che non veniva fatto da più di 30 anni. Abbiamo fatto un bel servizio fotografico, lo abbiamo portato all'attenzione dell'ente parco ma anche delle istituzioni regionali. Mi sono fatto promotore come vicepresidente del parco proporre alle istituzioni che questo non diventi una eccezionale concessione data a un sindaco, ma un qualcosa che in maniera regolare viene concessa agli amministratori locali, perché quando noi parliamo di economia del territorio, turismo, parliamo di attrattività turistica e poi abbiamo dei paesi che agli occhi dei turisti si presentano delle pattumiere, voi vi rendete conto che così non si va da nessuna parte. Dobbiamo sfruttare al massimo quello che abbiamo. Qua io non ho fatto proposte dove in tempi in cui bisogna fare economie si devono richiedere risorse aggiuntive. Sono proposte che con le stesse risorse riescono a centrare obiettivi importanti. Ecco Giovanni, io gradirei coinvolgere anche gli altri ospiti che hanno appunto intanto raggiunto il nostro studio qui a CRM. Saluto Salvatore Marsala, Pino Minutella. Ecco, sentendoti parlare noi sicuramente siamo sempre più convinti che quando c'è l'entusiasmo, la competenza, il voler fare, indubbiamente i canali si trovano e si possono trovare. Io non so se dei presenti c'è appunto qua siamo nel mondo dello sport, ma non solo, perché sono soggetti che si spendono per la comunità e lo fanno al di là dello sport. Io non so se loro desiderano fare una domanda al sindaco di Collesano, così già riscaldiamo i motori, tanto per restare in tema, per così poi passare all'intervista con il mondo dello sport cefaludese. Ovviamente non abbiamo la pretesa di aver invitato tutti, ma abbiamo dei rappresentanti che sicuramente daranno vita, ognuno nella propria specificità, e ci informeranno sulla situazione attuale, sullo stato dell'arte delle società che rappresentano qua. Salvatore Marsala. Ma intanto buongiorno. Io onestamente sentire parlare l'amico Meli, che lo reputo una persona abbastanza competente, in gamba, la domanda invece da a lui la farei ai nostri amministratori, perché non riescono a fare ciò che gli altri fanno. E qua, cioè, a Giovanni posso dire, gli faccio i miei complimenti, perché sentirlo parlare di ciò che ha fatto, conoscendo pure io le Madonie, è veramente stato in gamba. Oggi, dove l'economia veramente è a zero, a terra, con le risorse locali lui è riuscito a fare ciò che qualcuno qui non riesce a fare, e questo mi rammarica tanto. Ecco, c'è un confronto. Io penso che Giovanni non risponderà ovviamente a questa domanda, per ovvi motivi. Invece io ti chiedo, tra l'altro, ecco, l'importanza della ceramica di Collesano. Tu pensi che si stia sfruttando adeguatamente quest'altro filone che potrebbe portare a Collesano, oltre ad essere anche meta di turismo, ma anche coloro i quali desiderano anche acquistare? Tu pensi che concretamente si stia facendo qualche cosa per sviluppare anche questo settore? Noi non stiamo puntando solo sulla ceramica. Come voi sapete, noi abbiamo un altro museo, che è il museo della Targa Florio, quindi presenti qua gli sportivi. Qua dietro di me c'è Piero Vazzano, ho detto di non mettermi in imbarazzo mentre parlavo, ma lui, quando si parla di Targa Florio, penso che abbia qualcosa da dire. Sa benissimo che Collesano è stato il cuore della Targa Florio. Il problema non è solo puntare sulla ceramica, il problema è sfruttare al massimo tutto il potenziale che noi abbiamo. E Collesano, come tutti i paesi delle Madonie, hanno un grosso potenziale. Da noi c'è un potenziale ambientale, abbiamo luoghi meravigliosi. Io ogni tanto parlo con qualcuno che viene per la prima volta e che percorre il nostro territorio e resta incantato proprio dalla sua bellezza. Abbiamo un potenziale culturale, perché oltre alla ceramica, noi ad esempio abbiamo un sito archeologico che si chiama Monte d'Oro. Anche questo progetto noi lo stiamo portando avanti. Abbiamo preso contatti con la facoltà di archeologia di Agrigento per scavi didattici da fare sul sito archeologico. Abbiamo anche qui attenzionato un progetto che è all'ente parco, che possiede tutti i visti e tutte le autorizzazioni, che parla di della sentieristica, che parla di creare lungo il percorso qualcosa che possa dare ristoro a chi vuole avventurarsi per scoprire questo sito meraviglioso, che fu meta anche di Re Ruggero. Quindi c'è un collegamento in questo anche con Cefalù. Cosa dire? La Targa Florio, la ceramica, il sito archeologico, un centro storico con delle chiese meravigliose dove all'interno ci sono dipinti di autori, di pittori importantissimi. Se tutto questo viene messo all'interno di un percorso e viene in maniera intelligente offerto a chi ha voglia di visitare il nostro territorio, tutto questo può avere sicuramente. E non parliamo di quello che dovrà nascere da qui a breve, il centro astronomico di Snello. Quella è un'opera di livello non locale, ma di livello nazionale, posso dire anche internazionale, che sarà visitato da migliaia di turisti. E per questo mi voglio riallacciare a quello che è il potenziale che c'è sopra Collesano. Parliamo di piano Zucchi, parliamo di piano Battaglia, vogliamo parlare di questi rifugi che stanno morendo e che invece domani potrebbero essere la risorsa per il rilancio non solo di Collesano o di Snello o di Petralia, ma di tutto il territorio delle Madonie. Su questo si sta ragionando in questo momento. Totò sa meglio di me, ci sono delle riunioni che avvengono una dietro l'altra e parte tutto da un comitato di cittadini di Piano Zucchi e Piano Battaglia che rifiutano l'idea che uno dei posti più belli che abbiamo nel nostro territorio possa essere abbandonato in questo modo. Questa è stata conseguenza sicuramente di un qualcosa che non ha funzionato nelle istituzioni, non solo locali ma anche regionali, perché non si può parlare di Parco delle Madonie, non si può parlare di distretto turistico, non si può parlare di distretto culturale, mettere in moto tutti questi meccanismi e poi abbandonare uno dei luoghi più interessanti anche da un punto di vista scientifico. Proprio in quella zona esistono i luoghi di maggiore interesse di livello nazionale e internazionale sulla biodiversità, ci sono i sentieri geologici, esiste veramente, ci sono tante tante cose. Quello che purtroppo ci penalizza e penalizza non solo il nostro territorio, la nostra Sicilia, è proprio che non sappiamo sfruttare le tante cose belle che abbiamo. È arrivato secondo me il momento di cambiare pagine, andare in una certa direzione, perché diversamente saremo costretti di nuovo a emigrare così come è avvenuto negli anni 60 e penso che già questo movimento si stia rimettendo in moto e questo non va bene, è un vero peccato. Ecco Giovanni, prima di concludere forse poi c'è la domanda di Salvatore Marsala. Io altre due mie brevissime domande. La prima, gli eventi culturali. Il primo appuntamento è proprio imminentissimo, il Carnevale 2012. Collesano non mancherà a questo appuntamento. E poi, ecco, Collesano ci ha abituato anche ai tempi del mai dimenticato a Corso di Leo, a quella casazza che tu hai voluto riprendere, non per carità nella stessa direzione, ma come evento e come rievocazione storica. Ci hai creduto anche quando non eri sindaco, adesso da sindaco porta avanti anche questo momento di rievocazione storica che è molto importante per conoscere da dove proveniamo, dove siamo, verso dove vogliamo andare. Soprattutto è molto importante perché uno deve essere orgoglioso delle proprie radici e della propria identità. Quindi il fatto culturale. E poi l'ultimissima domanda, chi non la pensa come te in questo momento cosa ti sta contestando, se c'è qualche cosa che ti sta contestando? Aggiungiamo la domanda pure di Salvatore Marsala, così noi ci avviamo alla conclusione per quanto riguarda questo nostro incontro appunto con il sindaco Giovanni Meli. Per quanto riguarda i beni delle Madonie, parliamo del rifugio, ho vissuto lì 13 anni, secondo me i rifugi alpini, specie quello di Piano Zucchi, bisogna levare il monopolio a qualche club, a qualche associazione, visto che non è in grado di ristrutturarlo e quindi non lo fa nemmeno gestire a terzi. Una domanda sola, perché sulle Madonie non riusciamo a fare sistema? Solo questo. Allora, io devo dirvi, rispondo prima a questa domanda, se, sì. che non è vero che nelle Madonie non si riesce a fare sistema, perché quello che sta accadendo dice esattamente il contrario, perché in questo territorio sono nati i patti territoriali, in questo territorio si sta cercando di mettere in moto quello che è il distretto turistico, e sarà fondamentale, anche perché sappiamo bene che i prossimi finanziamenti saranno tutti indirizzati verso i distretti, quindi se non si riesce a fare il distretto vengono meno le risorse necessarie per lo sviluppo. In questo territorio è nato uno sportello unico delle attività produttive, è un qualcosa di unico a livello italiano, non parliamo di qualcosa, c'è un parco che ha tante cose da sistemare, ma devo dire che in questo momento c'è un commissario molto attento che si sta impegnando al massimo per, certo non ha la bacchetta magica, perché tante cose si sarebbero potute fare in precedenza, lui sta cercando piano piano di mettere a posto tanti problemi che c'erano, i risultati quindi non si potranno vedere a breve. C'è una società di sviluppo Madonie Sosvima che io devo fare veramente i complimenti al presidente Alessandro Ficile, perché con un piccolo consiglio di amministrazione e tre impiegati riesce a fare cose veramente incredibili. Quello che purtroppo non ha funzionato è stato, io non volevo arrivare a questo, però voi mi avete fatto una domanda. Ogni comune, se vuole far parte di un sistema, deve partecipare, deve essere presente, deve appropriarsi di quelli che sono i meccanismi e deve spingere con atti amministrativi per cercare di raggiungere determinati risultati. Io questi risultati li ho raggiunti perché sono stato all'interno di un sistema che mi ha messo anche nelle condizioni di poter raggiungere determinati obiettivi. Bisogna far capire a chi dovrà andare a amministrare la nostra Cefalù che o tu vai in questa direzione o non vai da nessuna parte. Anche Cefalù ha avuto le sue opportunità per poter raggiungere determinati obiettivi, io non conosco i motivi che hanno impedito tutto questo, però io mi piacerebbe vedere una Cefalù più presente alle riunioni, una Cefalù che partecipi, una Cefalù che è in linea con quelli che sono gli indirizzi di un intero territorio e sposi determinate strategie. E questo purtroppo non è accaduto. Io dico non perché per colpa del sindaco, ma perché probabilmente c'è una Cefalù che litiga troppo. Quando a Cefalù non si riesce a mettere d'accordo nemmeno sulla collocazione di una statua di Re Ruggero, che penso era un evento che doveva mettere d'accordo tutti, io penso che bisogna cominciare proprio da lì, bisogna capire che litigando non si va da nessuna parte, bisogna essere chi va a amministrare va lì non per litigare, ma per dare un servizio alla propria cittadinanza e per evitare che quella cittadina meravigliosa che è Cefalù possa sprofondare e possa diventare una cittadina assolutamente anonima. Quando qualcuno dice oggi, non voglio fare il nome, che Cefalù dovrebbe essere la capitale delle Madonie, è vero. Perché le Madonie non possono andare bene se Cefalù non va bene, perché oggi è inipotizzabile un turismo che guardi solo il mare o un turismo che guardi solo la montagna, Cefalù deve trainare le Madonie. Quando si va in altri luoghi, io penso, parlo sempre dell'Alta Provenza, noi abbiamo a valle abbiamo la costa con quelle realtà meravigliose, ma a monte ci sono tutta una serie di attrattività che poi spingono anche la costa quando c'è qualcuno che ha voglia di visitare un territorio. E noi non ci possiamo permettere che Cefalù vada indietro. È opportuno che a Cefalù ci sia un po' più di tranquillità, un po' di pace e di armonia, perché senza questo non andiamo da nessuna parte. Per l'evento culturale, poi chiudiamo. Evento culturale. E se c'è appunto chi non la pensa come te, se c'è qualche cosa che non hai potuto realizzare. Il carnevale sarà il carnevale di sempre. Collesano sai bene quanto ama questa manifestazione e quanto impegno viene messo non solo dall'amministrazione ma anche dalle persone per cercare di centrare l'obiettivo, perché il carnevale è ormai diventato un evento, è un richiamo non solo per i collesanesi ma anche per tanta gente che viene perché conosce questa realtà. Rispetto alla Casazza, noi ci siamo messi avanti anche questo obiettivo, abbiamo firmato un protocollo d'intesa col regista Pasquale Scimeca e la Casazza è stato già presentato come progetto ma non come rievocazione storica, ma è stato questa volta richiesto un finanziamento alla regione siciliana per inserire la Casazza fra i grandi eventi della regione siciliana. Anche su questo attendiamo una risposta. Io non so che cosa hanno da dire o cosa potrebbero dire le persone che normalmente, ed è giusto che sia così, non sono d'accordo col sindaco. Io posso solo dire che ci sto mettendo l'anima in quello che faccio e credo di avere la coscienza a posto, e quindi non solo, sono molto orgoglioso del mio paese e sono convinto che Collesano nei prossimi anni diventerà un paese meraviglioso. Giovanni, io ti ringrazio, ti saluto. Ecco, queste due ultime parole hanno un riscontro, perché generalmente io mi documento in settimana, soprattutto quando devo intervistare chi non appartiene alla nostra realtà. Ti posso assicurare che ho trovato degli assensi, dei consensi sul tuo operato. Ovviamente ci sono sempre detrattori, per carità, però dobbiamo dire che quello che stai facendo viene apprezzato dai cittadini di Collesano, e noi ti auguriamo, siccome oggi qua ci sono presenti tanti rappresentanti del mondo dello sport, lo sport unisce, lo sport è vita, potremmo utilizzare tantissimi slogan, noi ci auguriamo che anche in un prossimo futuro si possa organizzare qualche manifestazione insieme, sportiva o culturale, con Collesano, e riprendere quella armonia e quella coesione che non può assolutamente mancare nelle nostre realtà madonite, e soprattutto nessuno, come dicevi tu, si può tirare indietro o non partecipare. Gli assenti, dal mio punto di vista, hanno sempre torto. Grazie Giovanni, grazie per questo tuo intervento, buon lavoro a Collesano, e io passo la linea alla regia per un breve stacco, grazie. Giovanni. A Cefalù, la mostra fotografica dello studio di Stefano, Come si custodisce un sogno. Dall'11 febbraio al 14 febbraio 2012, presso Villa dei Melograni, Come si custodisce un sogno. Mostra fotografica dello studio di Stefano a Cefalù. Tutti i giorni, dall'11 al 14 febbraio, dalle 16 alle 22, Villa dei Melograni. La mostra terminerà con la cena di San Valentino, prenotando allo 0921 42 25 17. Studio di Stefano Foto e Video, via Mustafa 33 a Castelbuono. Telefono 0921

questi splendidi giovani della squadra che veramente stanno dando tantissimo con risultati veramente lusinghieri. Perché inizio da Minutella? Perché lo scorso anno fu fatta un'operazione costosa, tra le altre cose, di acquistare un titolo dal Gangi per un campionato di promozione. Un campionato che sicuramente ha portato tanta amarezza in quanti credevano in questa avventura, mentre quest'anno, per così dire, stanno riprendendo ormai da diverse settimane l'entusiasmo, perché si riparte dalla prima categoria, si riparte con i risultati e con il titolo che appartiene alla squadra. Tra l'altro ci sono due settimane di riposo, ma non si riposerà Minutella e Company, perché questo primo posto ormai è un primo posto che va esclusivamente consolidato. Pino Minutella, il mio allievo, è qua con me. Io prima gradirei che tu parlassi dell'esperienza dello scorso anno, perché l'esperienza dello scorso anno secondo me è stato un punto di partenza per fare crescere tutti e soprattutto per far sì che la squadra occupasse le posizioni o la posizione di prima in classifica che occupa oggi. Intanto buongiorno a tutti, ma prima di arrivare all'anno scorso, questo, noi dobbiamo considerare il fatto che questa è una società che nasce 6 anni fa, per spirito di tanti amici che lei conosce benissimo, e che prima di arrivare al campionato di promozione ha inellato una serie di risultati, come vincere il campionato di giovanissimi, di allievi, quello di terza e quello di seconda, per poi fare questo passo non azzardato, perché noi credevamo al nostro progetto, forse eravamo convinti che sarebbe stato un progetto di tutto Cefalù, invece così non è stato, perché come lei poco fa ha detto, siamo stati poi abbandonati da tutti, perché le amministrazioni ci hanno completamente abbandonato. Facciamo dei soldi questa brutta esperienza dell'anno scorso, che ci è servita sicuramente per partire bene quest'anno, e la conserviamo come ripeto, esperienza sportiva. Quest'anno il progetto era subito di fare un bel campionato, perché Cefalù merita una squadra di calcio in categorie più importanti, potrebbe essere la promozione o l'eccellenza, dopo l'esperienza dell'anno scorso dobbiamo fare un passo alla volta, arrivarci forse in maniera graduale per far crescere questi ragazzi in maniera da portare molta esperienza che possa servire per il futuro, senza fare più passi azzardati che potrebbero essere quelli di acquisire un titolo che magari è più grosso, più importante, quello potrebbe essere un cammino normale. Ecco, per quanto riguarda questi risultati, ma soprattutto per quanto riguarda la squadra che tu alleni, c'è qualche sorpresa in positivo? Cioè tu ti aspettavi che effettivamente, perché noi sappiamo che ci sono altre squadre quotate, insomma i risultati sono venuti anche perché la squadra ci crede fino al 90esimo, lotta fino al 90esimo, quindi una squadra che sicuramente sente la responsabilità di essere prima in classifica. Ma ad inizio del campionato ti aspettavi questa posizione in classifica, ma soprattutto questi risultati che sono per il 90% risultati che convincono? Intanto siamo partiti con l'obiettivo di fare bene e fare un campionato di vertice, lavorando assiduamente, poi l'esperienza di Chitta, di Villafranca non ultimo, di Nino Terzo, la maturazione di questi ragazzi, non va dimenticato Zangara che è un 92, sta facendo grandissimi passi, Pino Brocato, cioè tutti i ragazzi che ho con me da 5-6 anni, cioè, questa fase di maturazione insieme a questi ragazzi che hanno portato un po' di esperienza, e il fatto che noi siamo in debito con la Cefalù calcistica, perché l'anno scorso non abbiamo fatto un campionato di vertice, ci ha convinto tutti che potevamo sicuramente fare un campionato di vertice. Certo, ancora il cammino è duro, però veniamo da 16 risultati consecutivi, 7 vittorie fuori casa, la migliore difesa di tutti i campionati, il secondo attacco del nostro campionato, la dice lunga sui progetti e sulla mentalità che questa squadra ha acquisito. Ecco, così brevissimamente alla risposta, queste due giornate di riposo come li vede? Immaginate e pensate di tenere i ragazzi sempre allenati per la ripresa del campionato? come lei sa benissimo, quando ci sono i risultati l'ambiente è sempre bello e sereno, cioè, i ragazzi si stanno allenando nonostante le due settimane di sosta con molta abnegazione e molta volontà. Il gruppo è compatto, è un bellissimo gruppo di ragazzi che sta volando veramente con impegno, perché tutti siamo proiettati per questo benedetto obiettivo, che è quello di vincere il campionato. E forse lei, che di calcio ne sa tantissimo, ricorda che l'ultimo campionato vinto sul campo da primo in classifica fosse a 30 anni fa, con Toto Valenziano allenatore nella Cefaletto. A 30 anni che Cefalù non vince un campionato da primo in classifica. Ecco, non te ne andare, perché e poi ci sarà la domanda che riguarda il sociale, perché tutto quello che voi fate come rappresentanti, che fate con tanti sacrifici, poi ovviamente risponderete se avete aiuti dall'amministrazione oppure da enti sovraccomunali, ecco, tutto quello che fate con tantissimo sacrificio vi deve portare anche a riflettere, a capire perché oggi ci si trova da soli a lottare sotto qualunque punto di vista, diciamo sia in casa che fuori casa. Piero Vazzara. Si parla, caro Presidente, dell'Associazione Automobilistica i Normanni, della Cefalù Gibilmanna. Quindi ritorna un appuntamento che è molto caro non solo ai cefaludesi, ma a tutti coloro i quali seguono questo sport. Ricordiamo le bellissime manifestazioni anche a livello europeo. Io desidero salutare il barone Spinosa, il vulcanico barone Spinosa, il quale con la Cefalù Gibilmanna sicuramente alla Cefalù Gibilmanna ha dato tantissimo. Come nasce l'associazione e come nasce l'idea di riprendere la Cefalù Gibilmanna, se vuoi parlare anche del direttivo, di queste persone che ti sono accanto, e poi la data, diciamolo subito, se non vado errato, il 7 di ottobre domenica, ecco, sulla Cefalù Gibilmanna si potrà rivedere quello che abbiamo visto e gustato in passato. Dunque, siamo una decina, una quindicina di ragazzi appassionati evidentemente di automobilismo, che hanno nel cuore questa manifestazione che purtroppo da un po' di tempo non si realizza più, per tanti motivi, sì, principalmente quello economico, ma non credo solo quello economico, che abbiamo iscritto a campionato l'anno scorso. Dovrebbe, perché è tutto un progetto e chiaramente tante cose devono, tanti tasselli devono andare a posto, dovrebbe essere effettuata il domenica 7 ottobre. Il percorso è una manifestazione, voglio fare un altro inciso, è una manifestazione dedicata alle auto storiche, perché è più facile da organizzare, nel senso che i partecipanti sono in maniera in numero minore, sono più gestibili sotto questi tanti punti di vista. Il percorso chiaramente non potrà essere, almeno per quest'anno, che è un'edizione, chiamiamola, sperimentale, non potrà coprire tutto il percorso dalla partenza canonica fino all'arrivo canonico, ma quasi sicuramente partiremo dopo circa il quarto chilometro, anche per cercare di non dare molto, almeno in questa edizione, che quindi dovremmo avere quanto più consenso possibile. Oltre chiaramente il consenso degli appassionati, è evidente, no? Dovremmo partire al quarto chilometro da svincolare gran parte delle abitazioni residenziali non turistiche, chiaramente, e dare la possibilità alla gente di non stare tappata in casa per tutta la giornata e la domenica, perché quest'anno la prima edizione si svolgerà come evento sportivo solo alla domenica, la mattina presto alle prove, poi verso le 11, 10 e mezzo, 11, compatibilmente al tempo, al numero di iscritti e tante cose, e ci sarà la gara vera e propria. Le verifiche saranno il giorno prima, quasi sicuramente nella zona del porto, sempre per evitare di dare, come dire, problematiche al traffico. Insomma, per quest'anno in altri dobbiamo essere molto, come dire, cauti, molto soft sotto da un punto di vista di impegno anche delle forze dell'ordine, perché ci dovranno coadiuvare. E ci aspettiamo, visti, abbiamo già dato voce attraverso le scuderie, attraverso gli appassionati, attraverso il blog, ci aspettiamo un notevole numero di iscritti. È chiaro che tutte queste cose dovranno poi coincidere, andare a posto come tanti particolari che poi, insomma, nell'organizzazione. Io non sono un organizzatore, sono un appassionato e un pilota, quindi ci metto la passione al pilota e spero niente di più, perché stiamo parlando dal punto di vista di organizzativo. L'altra cosa che andava detta è che assieme al comitato, che è, diciamo, il punto di appoggio locale, l'organizzazione vera e propria, quella sportiva, quella tecnica, sarà demandata all'organizzazione di Collesano, che organizza la Collesano Piano Zucchi. Quindi mi rifaccio al discorso, riprendiamo il discorso che ha fatto il sindaco, l'amico Giovanni Meli, la Sicilia Racing, perché noi come organizzatori non abbiamo il patentino, per quest'anno non quasi sicuramente sicuramente ci dobbiamo affidare a qualcuno che abbia già l'esperienza di aver organizzato delle gare. Un'altra cosa va detta, che è intenzione nostra a livello sportivo di cercare di coinvolgere la cittadinanza soprattutto facendo qualche manifestazione anche a livello di qualche mossa fotografica o qualcosa che, diciamo, se ce ne fosse di bisogno, perché Cefalù è molto appassionata sotto questo punto di vista, e cercare di avere quanto più appoggio possibile anche dalle autorità per dare anche quell'immagine che Cefalù merita, ecco. Giovanni Giardina, ecco, se desideri proprio aggiungere qualche cosa a quello che ha detto il Presidente. Sì, pochissime cose. Buongiorno. Questo, in effetti, la nostra associazione, più che associazione, è un comitato promotore vero e proprio. Comitato che non nasce ora, è nato quasi 4 anni fa, dopo un paio di tentativi, perché lo scopo di questo comitato chiaramente è rivolto agli sport motoristici in generale. Io stesso, da cefalutano, assieme a Piero e ad altri amici, abbiamo cercato di prendere di nuovo le redini di questa manifestazione, che, tu sai benissimo, in passato ha avuto un notevole risvolto sia da un punto di vista turistico anche a livello internazionale. Il nostro obiettivo, Piero ha dimenticato una cosa, quest'anno sarà dedicata solamente alle auto storiche, per tutta una serie di problematiche legate anche, tra virgolette, alle caratteristiche del percorso. Però come speriamo che vada tutto a posto, la Cefalù Gibilmanna, tra le manifestazioni storiche, tra le cronoscalate, sicuramente avrà il percorso più lungo d'Italia. Saranno quasi 10 chilometri, mentre le altre cronoscalate di autostoriche si aggirano intorno ai 5-6 chilometri. Quindi già partiamo, diciamo, da questo punto di vista con noi il piede giusto. Diciamo che qual è lo scopo, anche ti ringraziamo per l'opportunità che ci hai dato, vogliamo sensibilizzare anche tramite la radio parecchi appassionati. Tu sai benissimo che Cefalù ha una tradizione dal punto di vista automobilistico molto forte. Cefalù si correva, c'era il giro Rally di Sicilia, non la targa del Rally di Sicilia, negli anni 75-77, c'è stata la Cefalù Gibilmanna, e come tu ben sai ha avuto, noi da subito, come diceva Piero, abbiamo contattato le varie scuderie, le quali immediatamente hanno dato non solo la loro disponibilità, perché Cefalù è conosciuta, il tracciato è bello ed è molto stimato dagli addetti al settore. Quest'anno, come dice Piero, ci siamo rivolti per il 2012 alla Sicilia Racing, la quale ha licenza di organizzazione, che si occuperà di tutta una serie di tra virgolette autorizzazioni, nulla osta, prefettizie, per quello che riguarda la logistica. Noi abbiamo già scritto la gara a calendario, volevo dirlo, ci siamo autotassati, il nostro scopo è quello, siamo una decina di persone, di raccogliere fondi sia di pubblici che da privati, e se ci riusciamo cerchiamo di fare un'ottima manifestazione. Comunque questo è il nostro obiettivo, il nostro scopo. Un'altra cosa volevo dire, oltre al fatto che, appunto, il percorso, come già ha descritto Piero, ci siamo già attivati, perché c'è solo una piccola interruzione, e già questo comitato ha chiesto alla provincia di intervenire dal punto di vista della manutenzione. I tempi, diciamo, che ancora tra virgolette ci sono, però tu sai benissimo che da un punto di vista burocratico queste cose vanno per le lunghe. L'ultima cosa che volevo aggiungere, la data del 7 ottobre, perché la nostra intenzione è quella di avvicinarci alla nostra data canonica tradizionale, la Cefalù Gibilmanna, che dovrà essere la seconda domenica di settembre, siccome la prima edizione, l'ultima edizione della Cefalù Gibilmanna è stata 4 anni fa, e siccome non vogliamo che innanzitutto non si perda questa tradizione che ha dato, come dire, tanto lustro alla città di Cefalù, e che poi tra virgolette che non si disperda o vada a finire altrove. Noi riteniamo che Cefalù, il nostro territorio, la Cefalù Gibilmanna, ci appartiene, noi ci siamo cresciuti, almeno io come appassionato, così come tanti altri penso ragazzi sia della mia età, della nostra generazione, Piero è ancora prima di noi, e non vogliamo che altri, ecco, altri ne facciano, come dire, abuso, uso e consumo rispetto alle... Quindi cerchiamo di tutelare quello che tra virgolette ci appartiene, quantomeno da un punto di vista affettivo. Grazie Giovanni. No, tu devi aspettare, perché sì, oltre alla domanda di sport desidero parlare della Bete di Milano con Salvatore Marsala, e poi girando sempre il microfono desidero anche ascoltarvi proprio sulla nostra vita cefalutana, su come state vivendo questi mesi che ci separano dalle elezioni amministrative. Penso che ognuno di voi si è fatto determinati pensieri ha determinati pensieri in merito, e quindi è un fatto da vedere. Io desideravo Real Cefalù, che ho avuto il piacere di presentare, calcio a 5. Ecco, abbiamo con noi Dario Di Paola. Avete giocato ieri e avete vinto? Ieri purtroppo abbiamo perso. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutti i presenti. Noi siamo gli ultimi arrivati, perché siamo i più giovani di tutti come realtà sportive cefaludesi, e proprio per questo dobbiamo spingere a più non posso per recuperare il gap dalle altre società sportive che ormai hanno una tradizione ben consolidata. Qui c'è la pallavolo, il basket, il Cefalù Calcio. Siamo ragazzi, e quindi la voglia di sacrificio, di lottare, di spendersi per questa nuova realtà sicuramente non manca. Il tutto è coinvolto, in tutta questa operazione è coinvolta anche la cittadinanza cefaludese, perché quando abbiamo deciso di puntare sul calcio a 5 non è stata casuale come scelta. Volevamo coprire un settore che in questo momento non era presente a Cefalù e che poteva dare spazio a chi magari non aveva questo tipo di passione o di entusiasmo di potersi appassionare ad una nuova realtà sportiva. Ieri purtroppo abbiamo perso contro i primi in classifica, una squadra di Villa Abate, il Ferro di Cavallo, che hanno uno score quasi come il Cefalù Calcio, tutte vinte e un solo pareggio. Ma noi siamo alla nostra prima esperienza e sicuramente stiamo facendo un ottimo campionato. Dario, scusami, c'è stato anche qualche cambiamento per quanto riguarda l'allenatore, ecco, ci puoi sintetizzare adesso la squadra, chi è affidata, chi la segue? Noi abbiamo fatto un cambio di allenatore a dicembre. Continuiamo e ringraziamo per quello che ha fatto Toto Fertitta e Franco Portera, che era la sua spalla, il direttore tecnico, che continuano la loro esperienza con il Real Cefalù nel settore giovanile e nella scuola calcio, insieme allo staff tecnico composto da Toto Glorioso, Peppe Provenza e Pietro Di Paola e Ignazio D'Antoni. Il nuovo mister è di Trabia. Lo abbiamo scelto e ha sposato subito il nostro progetto, intanto per l'entusiasmo che ha visto da parte di noi dirigenza, soci, ma anche della città di Cefalù, che devo ringraziare tutto il pubblico che numeroso affolla le tribune del Palasport Marzio Tricoli. Quindi mi permetto anche di ringraziare la provincia di Palermo, che ci dà questa grande opportunità di usufruire di un impianto da Serie A, io lo definisco, perché guardando in TV gli impianti di calcio a 5, il nostro non ha nulla che invidiare. E il nuovo mister si chiama Nino Manzella, ha una grossa esperienza nel calcio a 5. Ci siamo accorti purtroppo che calcio a 11 e calcio a 5 hanno in comune soltanto la sfericità del pallone e null'altro. Questo nuovo mister proviene da una decina d'anni ormai nell'ambiente. L'anno scorso era al Campo Felice, ha ottenuto grossi risultati, una promozione in C2, e ci troviamo bene con lui. Grazie Dario anche per questa sintesi. Salvo Di Giorgio e poi Totò Marsala. Salvo, mi dicevi salendo in studio, venendo in studio, che oggi è la partita che l'andrete a giocare fuori casa. Già sono in viaggio da stamattina. Se ci puoi fare anche tu il punto per quanto riguarda la squadra di cui sei presidente. Buongiorno a tutti. Stamattina le ragazze sono partite alle 7 di mattina, una trasferta difficilissima in terra di Calabria, e ce ne aspetteranno altre, dico, a parte per il campo dove si va a giocare, per la situazione in classifica, per la solidità della squadra che andremo ad affrontare, sicuramente una trasferta di quelle dure, difficili. E diciamo che quest'anno, con i debiti scongiuri, sono molto scaramantico per chi mi conosce, e le cose stanno andando dalla prima giornata abbastanza bene. Non erano programmate assolutamente restare in queste zone alte della classifica, dopo 15 partite essere sempre lì sopra, un po' di giro di testa ti viene, soprattutto per una squadra che al quinto anno di campionato, che fa il campionato di categoria di B2 nazionale, non era programmato, non ci era abituato, non aveva le soluzioni tecniche per poter affrontare un campionato di vertice nelle condizioni in cui è. E il merito sicuramente è dello staff tecnico, questo indubbiamente, formato dal professore Savasta e dal nostro Marco Sabatino, e dalle ragazze che, pur essendo in numero abbastanza esiguo per una squadra di pallavolo, siamo stati in 8 fino per tutto il girone di andata, con le vicissitudini della ragazza che è morto il papà, eccetera eccetera, con tutta una serie di situazioni, siamo sempre lì, non so fino a quando. Tutti mi chiedono: ma stiamo andando benissimo, promozione, cosa? Noi siamo lì, cerchiamo di fare, cioè è inutile negare che quando sei nei primi tre di un campionato difficile, in un campionato dove le risorse sia economiche che mentali sono notevoli da mettere giù, ti fa piacere senza dubbio, e finché l'opportunità ci conti, ci lotti. Nessuno tra noi sportivi piace scendere in campo per perdere, assolutamente, anche se facciamo la partita di calcio barilla, tutti cerchiamo di vincere, dico, è nella nostra indole, nella nostra personalità di sportivi da questo punto di vista. E ripeto, la partita sarà difficilissima, sarà anche una partita chiave secondo me per quanto riguarda il campionato, perché su questo campo le altre nostre antagoniste non hanno avuto risultati positivi, ecco, questo è un fatto da dire. Comunque altre 10 partite, vedremo quello che si riuscirà a fare, ma riflettendo col senno del poi, visto che questa domanda, Pino consentimi, me l'hanno fatta in molti, riflettendoci devo dire che quest'anno, un anno esattamente, perché il giorno 20 è stato inaugurato il palazzetto Marto Tricoli di Cefalù, che noi forse siamo riusciti a avere quella serenità quella serenità di programmazione, di allenamenti, di costanza nel poter svolgere un programma che è fondamentale per qualsiasi tipo di sport si possa fare, e che ci ha permesso anche di cementare un gruppo, di pianificare determinati allenamenti, ed ecco quella tranquillità di poterci allenare e di poter fare delle progettualità in un certo senso. E questo grazie, lo devo dire pubblicamente, non mi stancherò mai di dirlo, l'assessorato allo sport, l'assessore allo sport è una figura di Michele Nazza, che ma non soltanto ci ha dato l'opportunità di poter usufruire per primi del palazzetto, ma poi è stato aperto anche ad altre società sportive di Cefalù e non, e anche alle scuole, dico, non dimentichiamolo, al Liceo Mandalisca, all'alberghiero, che fanno attività pomeridiane anche presso il palazzetto, che è una grossa potenzialità per tutti, e non soltanto per la pallavolo, mi dico, ma per tutti, su questo territorio, che certamente noi che siamo sul territorio, sulla città di Cefalù, non possiamo lasciarci assolutamente sfuggire, dico, da questo discorso. Per questo dico il mio grazie a un assessore che effettivamente si è interessato per lo sport per quanto riguarda questo territorio, e non finirò mai di ringraziarlo per questo, per quello che ha fatto e per quello che andrà a fare. Anche è vero, scusami, è stato aperto anche ad altre situazioni, al ballo, oggi c'è una manifestazione, se non sbaglio, di arti marziali, voglio dire, è una cosa che ancora forse non vive al 100%, ma che sta cominciando a camminare e a funzionare, che è un fatto importante sia dal punto di vista sportivo e sia dal punto di vista di tutte le attività collaterali che girano intorno al mondo dello sport. Io ti ringrazio, Salvo. Totò Marsala, Totò, intanto devi fare anche una sintesi, perché qua stamane ho il piacere di intervistare voi che rappresentate, ripeto, manca qualcuno all'appello, lo faremo in una prossima trasmissione, ma di fatto al di là dello sport che rappresentate, siete sempre a diretto contatto con i giovani, con i meno giovani, quindi ci sono questi momenti di aggregazione sani, c'è questa Zannella Basket, che anche questa squadra, tra mille difficoltà, grazie ai volenterosi, anche persone disponibili, noi salutiamo sempre la dottoressa Emilia, perché è una figura emblematica per quanto riguarda il nostro basket, quindi tu andrai anche a sintetizzare questi interventi, perché poi passeremo ad un altro argomento che riguarda, ve lo anticipo, come state vivendo questi mesi che ci separano dalle amministrative di Cefalù. E non solo basket, Totò, ma anche questa Bit di Milano, un'altra iniziativa portata avanti da un privato, perché di fatto ti presenti da privato a Milano e andrai a pubblicizzare la città di Cefalù, oltre ovviamente al lavoro che tu porti avanti. Totò Marsala. Sì, sarò molto sintetico. Intanto un momentino fa sia Piero che Giovanni mi hanno fatto emozionare, perché io la Cefalù Gibilmanna l'ho vissuta da gran tifoso, ma è da un anno, Piero lo sa, la sto vivendo, perché Spinosa mi ha dato l'incarico di fare un libro sulla Cefalù Gibilmanna, che presto uscirà. Sono 240 pagine che descrivono tutta la Cefalù Gibilmanna, onor al merito al barone Spinosa. Per quanto riguarda la mia società, niente, noi andiamo avanti con il mio programma. Da 4 anni non abbiamo fatto altro che salire gradino dopo gradino. Dalla promozione abbiamo vinto, Serie D abbiamo vinto, Serie C2 l'anno scorso avevo detto salvezza, quest'anno ho detto playoff, e dalla prima giornata noi siamo in zona playoff, matematicamente siamo nei playoff, quindi i nostri obiettivi sono sempre stati portati a termine. Certo, l'enorme difficoltà economica, questo ci crea molte difficoltà, ma non mi ferma nessuno. I miei progetti vanno avanti, perché vanno avanti con grande umiltà e con molta serenità. Giustamente la gente pretende, il palazzetto non è pieno, è strapieno. Anche quando perdiamo la gente applaude, viene da me, Totò, ci siamo emozionati. Per me questo è importante. Ovviamente quest'anno noi abbiamo avuto grossi problemi perché la squadra è sempre stata incompleta, visto che abbiamo avuto infortuni dalla prima giornata, abbiamo giocato sempre in sei, e poi i nostri giovani che al momento opportuno sono entrati in campo hanno detto pure la loro. Spero di finire questo campionato come mi ero ripromesso, e poi il prossimo anno faremo una squadra più competitiva. Questo è il nostro progetto, ma il nostro progetto primario è quello di lavorare sui giovani, lavorare sul nostro settore giovanile. Quest'anno ci siamo un po' migliorati, c'è Carlos che sta lavorando bene sul settore giovanile, Totò Di Bianca, Andrea Lusco, e la cosa bella che l'altro giorno un papà, mi fermando, dice: Totò, ti ringrazio perché per noi quello che tu fai è sociale, molti bambini che sono un po' scalmanati fuori vengono a basket e sono tranquilli, e questo per me è importante. Onore al merito a tutte le società sportive, che perché capisco con quali sacrifici affrontano, anche se sei una società sportiva giovane io ti faccio i miei complimenti, va bene, perché non c'è nessun gap, tu hai iniziato, stai lavorando, state lavorando bene, come sta lavorando bene lui, come sta lavorando bene Salvo Di Giorgio. Mi dispiace sempre dirlo, l'amministrazione è totalmente assente, nemmeno sappiamo chi è l'assessore allo sport, ma la cosa che mi dispiace è che purtroppo infatti hai detto bene, noi andiamo avanti da soli senza problemi, io non ho mai chiesto niente, non chiederò mai niente a nessuno. Il discorso purtroppo però non si rendono conto che ci sono tanti bambini, perché qua parliamo di 300-400 bambini, esatto, è la cosa più grave. Tutti facciamo attività giovanile, cioè il riconoscimento a prescindere dalla prima squadra, vinca, perda, playoff, non playoff, sappiamo tutti la come prima funziona, squadra è sempre uno specchio per tutti i giovani. Tutti abbiamo e curiamo e ci attenzioniamo dal calcio al calcetto, al basket, alla pallavolo, a tutto, ai settori giovanili. Esatto. E questo non viene riconosciuto. Cioè, non è che vogliamo la medaglietta. No, assolutamente, io medaglia petto, non ne voglio, ne ho preso tante, nessuno. Però è giusto questo, l'impegno nel sociale, come diceva il professore Sempiglio, è importantissimo. Salvo, esatto. Adesso nella seconda parte delle domande ci soffermeremo appunto sull'aspetto sociale e sulla vita amministrativa, perché io che ho sempre la fortuna o la sfortuna di intervistare diretti e interessati, e stamane invece ho la fortuna di ascoltare la voce di cittadini cefaludese che stanno a contatto con tanti altri giovani e meno giovani. Prego, Totò. Noi andiamo avanti sempre con lo sport. Totò, la BIT, sei tutti noi per la BIT. Diciamo, allora, io da un anno lavoro a questo progetto, veramente da 10 anni, va bene? Perché vorrei ricordare a qualche amministratore che con gli stand della regione Cefalù era completamente messa da parte, anche fotograficamente. Cioè, parliamo di stand di 100-200 mila euro, non c'erano foto di Cefalù. E qualcuno che mi sta ascoltando lo sa questo. Allora per me è stata una scommessa. Lo scorso anno ho detto: no, Cefalù avrà il suo stand. Allora l'operazione è trasparente, sta costando 20.000 euro. Io fortunatamente ho trovato tutti gli sponsor. Qualche cosa la rimetto io, non è un problema. Ok? Lo sapevo. Ieri è partito Mailbox con 600 kg di materiale pubblicitario, 600 kg, tutta messa da sottoscritto. Ho coinvolto pure le due Proloco, va bene? Sant'Ambrogio e Cefalù, che lì sono riuscite a realizzare un calendario fatto da Giuseppe Terrasi, e sarà pure alla BIT di Milano. Io devo ringraziare chi mi ha collaborato, parlo di Nunzio Turdo, che ha fatto un repertorio delle immagini fotografiche, sono bellissime, saranno esposte alla Borsa del Turismo di Milano. Filippo Serio di Sant'Ambrogio, che si è occupato tutta la logistica, la mia collaboratrice Salvatrice Alberti, e tutti gli sponsor. Credimi Pino, io credevo, quando ho visto il conteggio, ho detto: sono nei guai. Tutti mi hanno dato i soldi, quelli che hanno partecipato. Qualcuno ha detto di no, ma non ha importanza. Io sono riuscito a coprire tutta la spesa per la BIT di Milano. Ci sarà una bella rivista che ha fatto di Cefalù, sarà presente là, che è quella rivista ufficiale, va bene? E Cefalù è a Milano, perché io ritengo che sia... Io la domanda che ho fatto un momentino fa, Giovanni Melli, non riusciamo a fare sistema. E da un lato, guarda, è vero, Cefalù è assente. totale dal sistema Madonia, ma non per una questione di ignoranza, per una questione di presunzione, cioè noi siamo convinti di essere noi e basta, però stiamo sbagliando tutto. Tutto qua. E allora io passo la linea alla regia. Ricordo ai radioascoltatori che si continuerà con le domande, ma adesso lasceremo lo sport e io intervisterò i cittadini presenti, appunto per capire come si preparano loro mentalmente per queste elezioni amministrative che vivremo a Cefalù. Linea alla regia, grazie. Pubblicità. Incredibile, strepitosa offerta scacciacrisi al ristorante pizzeria Ron e Salvo. Occhio, da oggi tutte le pizze consumate al tavolo verranno scontate del 50%. Il risparmio inizia da noi. Mangiare bene spendendo poco. Info e prenotazioni 091 81 40 159 oppure 347 59 62 101. Ristorante pizzeria Ron e Salvo, contrada Buonfornello, Termini Merese. La tua auto ha bisogno di assistenza alle gomme? Scegli la direzione giusta. C'è Ciaramitaro Gomme. Vendita e assistenza pneumatici. Cambio gomme con equilibratura e convergenza. Vendita e riparazione cerchi in lega. Tutte le migliori marche per auto, moto, fuoristrada e mezzi pesanti. Ciaramitaro Gomme ti propone per la stagione fredda le gomme invernali e ti garantisce per Goodyear e Dunlop l'assicurazione Super Service con la sostituzione dei pneumatici danneggiati e il soccorso stradale gratuito. Ciaramitaro Gomme, zona industriale Termini Imerese, telefono 0981 814 0016 e a Palermo in via Chiavarelli 10, www.ciaramitarogomme.it. È un'illusione che le foto si facciano con la macchina. Si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa. Giancarlo Cianciolo Fotografia. Dal 1940. L'eleganza della spontaneità. Fotografiamo ciò che gli altri non vedono. Passioni, emozioni, sentimenti. Giancarlo Cianciolo Fotografia. Showroom a Palermo in corso Scinà 172. Alle spalle del Teatro Politeama. E nuova galleria espositiva a Castelbuono, corso Umberto I 73. Ogni matrimonio è unico, come devono esserlo le immagini che lo raccontano. Per appuntamenti 338 21 81 401 www.giancarlociancciolofotografia.it. La DSL a banda larga arriva anche a casa tua. Un sogno? No, una realtà. Naviga su rete WiMAX di Aria, veloce, efficiente e pronta a soddisfare anche la clientela più esigente. Scopri WiMAX di Aria presso il rivenditore autorizzato Kefa Online, Piazza San Francesco 1, Cefalù, telefono 0921 92 30 91. Per info e copertura anche su www.kefa.it/WiMAX. Casa Dolce Casa. Una casa meravigliosa, calda ed accogliente. Non è un sogno irrealizzabile, ma una realtà. Affidati all'esperienza e alla qualità degli arredi di Mobili Marandano Santo. Camere da letto classiche e moderne, cucine delle migliori marche, Mobilturi e Vama, mobili e camerette per bambini, spa junior e cubica. Mobili Marandano Santo, a Castelbuono in Piazza San Paolo 41. Telefono 0921 672 171. Le soluzioni giuste per una casa da sogno. Mobili Marandano Santo, casa, dolce casa. Per trovare armonia e atmosfera per i vostri momenti indimenticabili, al Porticciolo, ristorante e pizzeria dove eleganza e raffinatezza si esprimono al meglio per gustare i sapori coniugati con la freschezza e la creatività. Ristorante e pizzeria al Porticciolo, lo chef vi stupirà con le sue originali ricette. Ristorante e pizzeria al Porticciolo, con terrazza sul mare, in via Carlo Ortolani di Bordonaro 66 a Cefalù, telefono 0921 92 19 81 per gustare le pizze più gustose e i piatti più prelibati. Per la tua pubblicità su CRM telefono allo 0921 423 456. Qua e là tra una novità e l'altra, domenica 12 febbraio 2012, ultimo giro di domande, stavolta non parleremo di sport ma parlerò con i cittadini, ospiti di studio, i cittadini cefaludesi. Io desidero iniziare dal dal più giovane dei presenti, Dario Di Paola, che ben ha detto nel suo intervento: noi siamo giovani, noi ci crediamo, noi cerchiamo di andare avanti. E poi si affidava alla esperienza di chi qua dentro è meno giovane. Caro Dario, possiamo essere tutti con esperienza, ma possiamo anche avere speso male i nostri anni in un settore. Tu stai iniziando col piede giusto, e la domanda è questa: tu andrai a votare quest'anno? Io andrò a votare. Ecco, certo. Se dovessi dare un voto a questa amministrazione, la domanda è uguale per tutti, a questa amministrazione, Guercio, che voto daresti? Dare un voto qui su due piedi è veramente difficile, ma per tanti motivi, per tanti aspetti. Non mi tiro indietro, darò poi un voto, però volevo fare una piccola premessa. È facile da fuori poter dare giudizi, sentenziare senza conoscere bene le carte in tavola, e io mi sento nelle condizioni di dire: conosco quello che conosciamo un po' tutti, qualcuno conoscerà di più, qualcuno conoscerà di meno, ma non abbiamo sicuramente, proprio perché non siamo dentro quella casa comunale in prima persona, la sensazione e tutte le carte burocratiche a cui il sindaco Guercio ha dovuto far fronte. Sicuramente lui è arrivato in un momento, lui e con la sua amministrazione è arrivato in un momento non particolarmente florido dal punto di vista economico, per quello che aveva trovato, e sicuramente il momento in cui oggi noi ci troviamo, non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista imprenditoriale, mi sembra non essere così brillante. Il sindaco Meli ci ha confermato comunque che non è un problema di soldi, non è solo un problema di soldi, è un problema organizzativo. Stiamo facendo un'esperienza noi a livello sportivo che la trasportiamo e la trasliamo anche nella nostra vita reale, nella nostra vita di ogni giorno, e ci stiamo accorgendo che senza programmazione, come diceva il presidente Di Giorgio della pallavolo, senza programmazione è difficile andare avanti, e senza percorrere le linee guida che il sistema Madonita ci sta imponendo, noi deragliamo, noi ci troviamo fuori da ogni logica. E quindi a questo punto io andrò a votare, come spero che vadano a votare tutti i nostri concittadini, non pensando ad un ruolo futuro, non pensando ad un posto di lavoro futuro, non pensando ad una poltrona futura. Noi dobbiamo votare le persone che individuiamo possano farci crescere, possano risollevarci da questa situazione in cui ci troviamo. E io sono fiducioso perché Cefalù, come il nostro amico Toto Marsala ci conferma, ha delle potenzialità straordinarie, straordinarie. Leggevo qualche dato di quante persone sono salite sulla rocca anche in mesi comunque freddi, come dicembre, gennaio, e sono numeri grossi, sono grossi numeri, e noi non la pubblicizziamo come la rocca meriterebbe. Noi non la sfruttiamo, tra virgolette, con cartellonistica, segnalazioni, guide, come la rocca meriterebbe. Noi non sfruttiamo il nostro clima, che permetterebbe di avere persone qui a Cefalù 10 mesi l'anno e 2 mesi andarcene tutti in vacanza, ma in vacanza sul serio, senza pensare a nulla, soltanto programmando i prossimi 10 mesi. Quindi io non do la sufficienza a questa amministrazione e non mi sento di darla. Ritengo che oggi... Il Consiglio Comunale, siccome tu ci hai fatto tutta una discussione molto articolata, hai detto: signori miei, stiamo attenti, non sempre le colpe sono di chi amministra, perché dobbiamo fare i conti con la macchina burocratica. Lo confermo. E quindi tu, il senso del tuo intervento è questo. Io ti chiedo, e al Consiglio Comunale un voto bassissimo. Al Consiglio bassissimo. Comunale un voto bassissimo. Bassissimo. Ho sentito qualche consigliere dire: il giovani è il cefaludese non partecipa ai consigli comunali. Io mi sono permesso di andare a vedere due o tre consigli comunali in cui si parlava della pietra della memoria. È stato ridicolo. È stato ridicolo assistere a discussioni prive di ogni logica. Si è parlato per tre mesi di dove posizionare la pietra della memoria senza trovare un posto per la pietra della memoria. Quindi ecco, a questo punto così chiudiamo con Dario Di Paola. Che sindaco vorresti per i prossimi cinque anni e che consiglio comunale vorresti? Allora, partiamo dal sindaco. Sì. Il sindaco deve essere una persona, non ha importanza cefaludese o non cefaludese, che crede in Cefalù. Crede in Cefalù, nelle sue potenzialità e le sappia mettere a frutto. Vorrei un sindaco che sappia coinvolgere ed unire la cittadinanza. La parola sistema, è un po' abusata in questo momento, si parla di sistema dovunque, però il concetto purtroppo è proprio quello. Se noi riusciamo a interagire a livello sociale, a livello culturale, a livello economico, a livello sportivo, senza fare la guerra dei poveri, senza fare la guerra per conquistare una mollica, e riusciamo ad ampliare i nostri orizzonti, sicuramente noi troviamo quella persona che ci sappia garantire un futuro. Io sono giovane e faccio parte di un'associazione sportiva di soli giovani. Il nostro intento è quello che sappiamo, non abbiamo molte alternative. O ci siamo noi ora dentro, oppure per i prossimi anni vedremo solo buio intorno a noi. Quindi siamo pronti a scendere in campo, a partecipare, ad avere una voce. Per il consiglio comunale, io invito a votare persone che abbiano comunque voglia di spendersi per questa città, non andando dietro alla singola poltrona o al fatto di sentirsi chiamare consigliere X o consigliere Y. Io spero che le persone che saranno votate, saranno forse meno rispetto al vecchio consiglio, forse saranno 16, ecco, capiscano il ruolo fondamentale che possono avere per questa città. Noi siamo avvolti da una burocrazia italiana, forse troppo complessa, troppo macchinosa, troppo farraginosa. Ecco, se noi ci mettiamo pure persone che per decidere delle banalità vanno avanti per mesi, restiamo ancorati a dove siamo. Grazie Dario. Pino Minutella, primo in classifica, allenatore. Salutiamo Toto Valenziano, salutiamo tutto lo staff, salutiamo questi ragazzi che ti stanno dando tanta soddisfazione. Però adesso parliamo di politica cefaludese. Un voto all'amministrazione, un voto al consiglio, e che sindaco vorresti? Dario ha fatto una bellissima disamina del consiglio, del periodo politico che stiamo vivendo per ora a Cefalù. Credo che se dobbiamo parlare di progetti, guardarci indietro, perché potrebbe essere soltanto un voto negativo, perché io parlo per esperienza personale, non potrebbe essere mai un voto positivo. Ma il voto negativo va dato al sindaco per quello che ha fatto nei nostri confronti, nei confronti di Cefalù, e parlo del consiglio. Io invece quello che vorrei un attimino ribadire è che secondo me c'è assenza di progetto futuro, perché guardarmi indietro per quello che si è fatto fino adesso mi può servire a poco, caro professore Semplicio. Credo che la cosa più importante da fare oggi è che chi fa politica, e su questo vorrei veramente manifestare, che forse c'è bisogno di una classe politica di livello per portare Cefalù a certi livelli veri e propri, comincia a dare progetti per quello che Cefalù deve fare da ora in avanti. Dare un voto oggi, guardandomi indietro, ripeto, potrebbe essere soltanto negativo. Vedo invece l'assenza di progettualità, cioè io non capisco cosa vogliono fare i politici. Al momento andiamo a votare e ancora oggi non capisco cosa vogliono fare i partiti, cosa vogliono fare i politici per Cefalù. Cioè, se lei oggi mi dice: Pino, tu vai a votare, forse non ci vado, per qua votare, per chi devo votare se c'è l'assenza di progetti? Se qualcuno invece comincia a mettere sul tavolo progetti validi, che facciano bene a Cefalù, alla Cefalù sportiva, alla Cefalù come popolo, come paese, che porti dei benefici, e allora veramente saremo tutti pronti ad andare a votare e a sostenere, certo con i tempi giusti, perché è giusto che ci sia ora per chi viene dopo, le aspettative, aspettare che questo paese cominci a crescere in maniera graduale. Ma ripeto, più che guardarmi indietro, vorrei vedere veramente i politici propormi qualcosa di positivo per Cefalù. Quindi un sindaco con una progettualità, con una progettualità definita, e quindi andare appunto a discutere sul progetto futuro, di Cefalù. Piero, tu oltre ad essere presidente dei Normann, sei un operatore della città di Cefalù, economico. Quindi la domanda è sempre la stessa: voto all'amministrazione, voto al consiglio comunale, e che sindaco vorresti? E che consiglio comunale, ovviamente. Io sono dell'avviso che per fare bene avanti bisogna anche guardare indietro e prendere e fare tesoro degli errori che sono stati fatti, purtroppo sono stati tantissimi, però dobbiamo dire, prima di criticare, dobbiamo fare, facendo un'analisi molto, come dire, schietta. Questa gente che ci ha governato per 5 anni, 6 anni, 7 anni, anche 10 anni fa, l'abbiamo eletta noi, giusto? Quindi c'è stato un rapporto anomalo, si è rivelato anomalo adesso, con queste persone che ci governano, nel senso che il rapporto che noi abbiamo avuto con questa gente non è stato un rapporto politico, ma è stato un rapporto, chiamiamolo, di favore, di obbligo, di qualche cosa che è andata al di là delle capacità che effettivamente, della valutazione delle capacità che effettivamente queste persone potevano dare. Noi da lì dobbiamo partire, cercare di scegliere delle persone, di fare una scrematura di questa enorme massa di persone che ci viene presentata. Sto parlando di consiglieri, di sindaci, cercare di capire quelli che effettivamente possono essere funzionali nel ruolo che avranno, solo questo, cercare di avere, e chiaramente la politica è fatta anche di, diciamo, di simpatie, di favori, chiamiamole come vanno chiamate, però questo, in questo momento, secondo me, Cefalù ha bisogno di un colpo, come dire, di orgoglio, di fare capire che noi cefaludesi non meritiamo quello, lo stato delle cose che abbiamo adesso, questa è la verità. D'altro, dobbiamo cercare di anche nelle proposizioni delle persone, di fare capire quelle che lo possono fare, il sindaco, il consigliere, l'assessore, e quelli che materialmente non hanno la capacità di farlo. Questa è la pura e sacrosanta verità di Cefalù, che si è portata avanti non da questa legislatura, per carità, perché sono ormai, io ho una certa età, e Pippo Quercio è un mio coetaneo, posso capire, ci ha provato, è andata meno bene di quello che di come si pensava. È chiaro che è una prospettiva che non lo agevola. Lui deve fare tesoro delle sue inesperienze, cercare di, soprattutto anche parlando con la cittadinanza, perché una cosa che va detta oggi è che c'è uno scollamento totale delle istituzioni con il popolo, cioè le istituzioni vanno in una direzione e il pensiero, il popolo, i problemi popolari sono tutti altra cosa. Questa è la verità delle cose. Noi altri siamo un piccolo centro. Io immagino se una città come Roma, Milano, Napoli fosse amministrata con gli stessi crismi con cui ha amministrato Cefalù, ci sarebbe la guerra civile. Questa è la verità. Noi altri dobbiamo cercare il nostro orgoglio, il nostro campanile deve essere questo. Scegliamo una persona e portiamola avanti. Sosteniamola fino alla morte a questo punto, perché qua stiamo parlando di una situazione economica che non ha molte vie di uscita. Questa è un'altra, dobbiamo cercare di capire di come invertire la rotta di questa cosa. E questa è una cosa veramente difficile, questa è la verità delle cose, perché le prospettive, i progetti si fanno. Oggi io da imprenditore economico non saprei più dire a Cefalù che cos'è economicamente vantaggioso fare e che cosa non è più economicamente vantaggioso fare. Questa è un dubbio, una situazione che è veramente deleteria, distruttiva da un punto di vista economico, distruttiva. Io ho sempre detto che in questo paese è su una bomba di soldi. A differenza di qualsiasi altro posto siciliano, limitrofo, lontano, altri, qualsiasi cosa facciamo, vediamo che è un esploati, un successo. Mi riferisco allo Sherbet, mi riferisco a tutte quelle altre attività che noi altri ci proponiamo di fare, però inizia. O viene sponsorizzata da terzi, quarti e quinti che non sono cefaludesi, o che non hanno, come dire, la volontà di far rimanere questa sponsorizzazione qui a Cefalù con i nostri. E quindi vedo che in altri, tutte le nostre, come dire, potenzialità le tagliamo noi stessi alla radice. Questo non deve essere possibile, e questa è colpa solo della politica, del pensiero, delle persone che ci governano. Ecco, Giovanni non abita a Cefalù e forse non vota, no, non voti a Cefalù. Però due parole le devi dire da cefaludese. Sì, per carità, non entrerò nel merito, anche perché sono 14 anni, tu lo sai benissimo, residente all'Ascari, ma io mi ritengo cefalutano, tra virgolette, sono cefalutano doc. Vorrei dire solamente una cosa, dice Piero giustamente, Cefalù ha una potenzialità enorme. Guardi, io degli amici e colleghi non vengono più a Cefalù, ma non da lontano, neanche da Palermo più. Un suggerimento a chi sarà il prossimo amministratore di questa città, spero che possiamo fare del bene. Un primo consiglio immediato che mi viene, poco fa il giovane qua parlava del Rarrocca, che è sicuramente una potenzialità che non abbiamo mai sfruttato, è asfaltate le strade di Cefalù, tutte le strade di Cefalù, non si può più neanche camminare. Cominciate ad asfaltare tutte le strade di Cefalù e a sistemare la viabilità, perché non è più possibile a Cefalù, appena comincia il periodo estivo, che per entrare in città ci vogliono 30 minuti, 40 minuti di fila. Cefalù non è più proponibile all'esterno, lo dico a malincuore, Cefalù è la mia città, ci sono nato, ne sono sempre innamorato, però purtroppo vedo che ha fatto dei passi indietro, non è andata più avanti. È in bocca al lupo a chi sarà il prossimo amministratore. Salvo Di Giorgio, le domande sono uguali. Qual erano? Me le ricordo. Ecco, voto all'amministrazione Guercio, voto al consiglio comunale, e chi vorresti come figura di sindaco, nel senso proprio nel senso più ampio del termine. E allora, l'opinione mia personale è, sì, sarò tipo consiglio di classe, molto, molto breve su questo, perché volevo ampliare un po' il discorso su un fatto collaterale ma importante. Insufficiente sicuramente per quanto riguarda l'amministrazione, scarsa per quanto riguarda il consiglio comunale, altamente deludente. Questo è il mio modesto parere. Per quanto riguarda la figura del prossimo sindaco, tutti ci concentriamo sulla figura del prossimo sindaco, chi sarà, come deve essere, che caratteristiche deve avere, qual è la situazione. Io, da umilmente, da uomo di sport, direi una cosa fondamentale, cioè io ho sempre fatto uno sport di squadra. E se si costruisse una squadra intorno a qualcuno capace, sicuramente i risultati sarebbero eccellenti, anche perché partiamo, e lo dico da cefaludese questo discorso, da un enorme vantaggio, da quell'enorme vantaggio che siamo a Cefalù. Da quell'enorme vantaggio che risiediamo a Cefalù, siamo di Cefalù, e delle potenzialità che tutti qui dentro abbiamo detto e tutti sentiamo dire, che è quella che è Cefalù. Però non dobbiamo dimenticarci di una cosa importante. Io la definisco la città reale, non la Cefalù reale, con i veri problemi, le vere opportunità, risolvere quei problemi e quelle piccole cose, piccole grandi cose che bloccano l'economia. Basti pensare a un fatto così, un a caso, il depuratore, esempio, che blocca tutto un sistema dell'edilizia, correggimi se sbaglio Piero, o degli impianti che funzionano, sportivi, che funzionano bene o male, che potrebbero essere potenziati. Cioè, in tutti i settori c'è da fare qualcosa, sicuramente, qualcosa che non si è mai fatto, ma però siamo a Cefalù e qualsiasi cosa viene, come dire, un po' annacquata. Siamo comunque a Cefalù, stiamo bene, vogliamoci bene, tranquilli, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto, costruire intorno a qualcuno che poi sia di Cefalù, non è di Cefalù, cioè è polemiche inutili, non è questo quello che conta sostanzialmente. Quello che conta è costruire una squadra attiva, capace e competente, con una progettualità determinata, e che si diano degli step, delle scadenze ben determinate, se no si cambia, si gira, si cambia capitolo. Quando un allenatore non va, caro professore, si cambia. Se uno ha degli obiettivi di vincere e non vince, si cambia, c'è poco da fare, almeno nel mondo dello sport è così. Scusami se posso dire. Prego. Dico, se noi altri avessimo risolto già questo problema dell'individuazione delle persone, avremmo risolto il nostro problema politico già al 90%. Il fatto stesso, e chiudo qui perché io non faccio politica, però mi piace oltretutto da questa mia, parte completamente abbastanza, non di parte, dire, noi altri dovremmo cercare di fare i piccoli passi, perché tutto quello che noi altri diciamo adesso richiede dei tempi, almeno per i tempi della politica, degli spazi enormi. E le elezioni sono dietro l'angolo. Il fatto stesso che ci siano più candidati a sindaco, per carità, come a livello democratico non ho nulla, però cercare di, visto oltretutto, facendo una piccola parentesi, che le prossime elezioni sono un'incognita a livello consiliare, perché il consiglio viene ridotto, quindi l'importanza del consigliere viene aumentata, è evidente, aumentata anche come a livello di consensi, perché mentre nelle passate elezioni si poteva diventare consigliere con 150 voti, adesso ce ne vorrà nel doppio, è data una importanza notevole alle liste, e quindi chiaramente c'è anche una possibilità di creare un consiglio che non sia assolutamente in accordo con il sindaco. È tutta una serie di incognite che portano oggi a una, a una dispersione di interesse e di focalizzazione di interesse sulle persone. Perché tu non sai quello che devi fare. Hai 10 candidati a sindaco, seminiamo i voti. Io non vedo in prospettiva, obiettivamente, chiudo qui, che una persona sia, una persona eletta in questa maniera sia fortemente rappresentativa. Perché oggi basta superare di un voto solo, il proprio concorrente, e diventi sindaco. Salvatore Marsala. Ma guarda, io condivido in pieno ciò che hanno detto tutti qui presenti. Quando si parla di politica mi fa male la pancia, specie quando si parla di politica a Cefalù, perché a Cefalù non si fa politica, secondo me, che fare politica significa intanto ascoltare il popolo, intanto ascoltare i problemi della città, e questo purtroppo non si fa a Cefalù. Io dico, dobbiamo dare un voto all'amministrazione, al sindaco, agli impiegati comunali. La macchina è seguita e condotta anche dagli impiegati comunali. Io non mi sento di dare una frustata al sindaco o agli amministratori o a tutti. Io lo do a tutti, io proprio do al palazzo comunale voto zero. Mi dispiace dirlo, perché come dice Salvo Di Giorgio, dobbiamo giocare di squadra, dobbiamo lavorare di squadra. Io l'altro giorno sono andato a presentare un certificato, busso, buongiorno, pare che c'era mutismo totale. Cortesia, non tutti ovviamente, c'è chi veramente lavora, però dobbiamo lavorare tutti per questa città. E poi una cosa molto importante che voglio dire agli attuali amministratori, cioè noi non abbiamo una programmazione estiva. Cioè loro pensano solamente e esclusivamente all'elezione comunale, ma c'è Cefalù chi ci sta pensando? Io ripeto, sto andando alla Borsa del Turismo di Milano, già là ci sono presenti comuni, città, con la loro programmazione estiva, anche in città dove ci sono le elezioni. Cioè noi stiamo arrivando, ma ci stiamo preparando per le elezioni in maniera, secondo me, molto confusionaria, anzi forse sono loro che si stanno preparando, perché il cittadino ancora non è preparato alle elezioni, perché come dice c'è molta confusione. Però voglio dire questo, alla programmazione estiva della città di Cefalù, che ha tanto bisogno di lavorare, chi ci sta pensando? Io sto andando alla BT di Milano, sto portando Cefalù, l'immagine di Cefalù, che è molto positiva, il mio slogan è Cefalù bello ovunque. Ma se una sola persona che vede lo stand viene a Cefalù, a me che cosa mi dice? Tutto qua. Allora, ci salutiamo in un modo. Io recupero un passaggio di Totò Marsala. E il passaggio è questo. Lui asserisce, Ma si sta andando verso le elezioni amministrative del 2012 con un pochino di confusione, perché ancora, tranne un candidato a sindaco che già io ho avuto ospite domenica scorsa nella persona di La Punzina, c'è stato anche Caleò, anche lui probabilmente candidato a sindaco, però non sappiamo ad oggi. Il dottore Guercia ha detto che si ripropone e non sappiamo da chi sarà sostenuto, da quale partito sarà sostenuto. Sicuramente vogliamo capire il PDL, perché adesso sono ritornate in campo tantissime figure che da 4 anni a questa parte noi onestamente non è che abbiamo visto tanto, perché se uno crede in un progetto politico, se si vince è per alimentare quello per cui si è votato, secondo me. Se si perde dovrebbe essere più vicino al cittadino per cercare di capire quali sono le richieste che vengono dal territorio. Dobbiamo dire che alcune figure che si erano messe da parte adesso stanno ritornando in campo. Che ben vengano se vogliono fare chiarezza, ma se si deve andare avanti sempre sulla confusione, come dicevi tu Totò, allora c'è qualche cosa che non funziona. E allora ci salutiamo con questa ultimissima domanda. L'avvertite voi questa confusione in questo momento? Vi state chiedendo voi, al di là di chi sarà il sindaco di Cefalù, da chi sarà sostenuto, da chi non sarà sostenuto, perché a volte le discussioni si fanno in sagrestia anziché farle alla luce del sole, anziché presentarsi direttamente all'elettorato? O questo elettorato, così facendo, alla fine dovrà andare a scegliere sempre a scatola chiusa e quindi non avere quella consapevolezza sulla progettualità o sul progetto di cui diceva Minutella? Totò. Allora, noi la confusione, come si evince oggi qua, l'abbiamo avvertita. Forse sono loro che non l'hanno avvertita, che c'è questa confusione. Dario? Diciamo che bisogna capire fino a che punto questa confusione che noi percepiamo è reale o sotto sotto cosa sta succedendo, e quindi, come diceva prima il professore, è ancora nascosto alla cittadinanza. Ho una certezza, ho detto che andrò a votare, spero che tutti i cefaludesi vadano a votare, ma votare al buio non è bello, e quindi quanta più chiarezza ci possa essere, tanto più il voto sarà sicuramente voluto e uno crede nel votare. Pino Minutella? Io spero veramente in una classe politica di livello, e che i partiti facciano veramente luce su quello che possono essere i programmi per portare avanti i progetti a Cefalù. Piero Vazzana? La confusione c'è, è evidente, e giustamente va detto se è frutto di un progetto oppure è frutto di una, come dire, apatia atavica di questo posto. Io mi auguro che sia la seconda ipotesi, ne dico, perché rientrerebbe nell'ambito della norma. E mi auguro soprattutto che in queste prossime elezioni si mettano in gioco quanti più giovani, quante persone che non hanno mai fatto politica fino adesso. Solo questo, cercare un ricambio tanto nella classe politica di vertice quanto in quella intermedia. Allora, Giovanni giustamente già ha detto, Salvo. Confusione, la confusione c'è, le persone, io ho un timore, una paura mia, così non vorrei fare la Cassandra della situazione, che la gente non vado a votare, cioè è talmente l'apatia verso l'amministrazione, verso la politica, verso il sistema, ecco, la cosa spinga le persone a non andare a votare. Questo sicuramente è un fatto negativo, cioè che dovremmo tutti scongiurare che avvenga una situazione di questo genere, perché in democrazia è importante esprimere la propria opinione, sia di destra che di sinistra o di qualsiasi altro tipo di natura. Però questa è una preoccupazione da non sottovalutare. E allora, Totò, tu volevi aggiungere qualche cosa prima di chiudere? È finita. Sì, la trasmissione è finita. Vedi, i microfoni sono sempre aperti. Sempre aperto. No, volevo dire questo. Vedi, non c'è stato nessun intervento di nessuno. Nessuno ha chiamato, nessuno si è fatto sentire. Assenza totale. E allora termina qui l'odierna puntata di qua e là, c'è una novità e l'altra. Io ringrazio il sindaco Meli per il suo intervento, ma consentitemi di ringraziare Totò Marsala per il basket, Dario Di Paola per il calcio a 5, Pino Minutella, mio allievo, un pochino discolo, però sempre simpatico, Piero Vazzana, Giovanni Giardina e Salvo Di Giorgio. Due appuntamenti da non perdere. La regia mi passa una nota: da lunedì 13, con inizio alle ore 20, CRM Radio trasmetterà non solo in audio ma anche in video, in diretta, il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda l'audio, le frequenze, la frequenza è sempre la stessa, 101 e 400, mentre per quanto riguarda il video, www.crmhappyradio.it. quindi da domani CRM inizierà proprio a trasmettere i consigli comunali in diretta, sia in audio e sia in video. E poi domenica prossima, dato che il calcio, sabato prossimo, scusate, dato che il calcio a 5 è molto seguito, si vivrà sempre al Palasport, ma sarà al Calanica, giustamente, mi suggeriscono, al Calanica ci sarà il derby di calcio a 5 tra il Cefalù Calcio e il Real Cefalù, con inizio alle ore 21. Quindi non perdetevi questo appuntamento, questo appassionati, perché il calcio a 5 è un altro momento di sport che viviamo nella nostra città. Grazie come sempre a Fabio che mi ha assistito in regia, Angelo Arduino l'abbiamo mandata in pensione, da Pino Simplicio un buon proseguimento di domenica e ricordatevi domani, lunedì 13, oltre a seguire la replica alle 13.15, comunque la replica può essere sempre seguita su CRM in qualunque momento di questa trasmissione, con inizio alle ore 20, in diretta il Consiglio Comunale, e sabato prossimo al Calanica il derby di calcio a 5 tra Cefalù Calcio e Real Cefalù. A tutti gli amici sportivi un cordiale saluto, vicini e lontani direbbe qualcheduno, un caro saluto da Pino Simplicio e soprattutto agli ospiti che ho avuto oggi. Continuiamo con lo stesso entusiasmo e con i sacrifici di sempre, perché quando arrivano le vittorie, perché si lavora con entusiasmo e sacrificio, allora hanno un sapore sempre migliore. A tutta una buona domenica da Pino Simplicio, grazie. Abbiamo trasmesso qua e là tra una novità e l'altra.